Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Ormai è fatta, di Ors Fantazzini. Parte dodicesima. La sentenza. Articolo tratto dal Corriere Adriatico del 5 dicembre 75. La rivolta nel carcere di Fossano. Per Fantazzini, 18 anni di carcere. È stato condannato a 18 anni di reclusione e 2 di lavoro in una colonia agricola Horst Fantazzini, il detenuto che il 23 luglio del 73 fu protagonista di un sanguinoso tentativo di fuga dalle carceri di Fossano, Cuneo, ferendo alcuni agenti di custodia, sequestrandone altri prima di essere a sua volta ferito e affucilato dai carabinieri. La Corte di Assise di Cuneo l'ha giudicato responsabile di tutti i reati di cui era imputato: tentativo di omicidio, sequestro di persona, tentativo di evasione, minaccia a pubblico ufficiale e detenzione di armi, e gli ha inflitto una pena di 2 anni inferiore a quella richiesta dal pubblico ministero. Fantazzini, presente in aula al momento della lettura del verdetto, ha accolto la condanna senza particolare emozione. Conversando con i giornalisti durante le pause del dibattito, aveva tra l'altro detto di prevedere che i giudici gli avrebbero inflitto 15 anni. In questa ultima fase del processo, tra il pubblico era presente anche l'attrice Franca Rame, che si è interessata alla pubblicazione, imminente, di un libro scritto dallo stesso Fantazzini, su quanto accaduto nel carcere di Fossano in quel 23 luglio di 2 anni fa. Gli altri imputati, le guardie carcerarie Orlando Ruggero, Giovanni Rosciano e Salvatore Restaino, sono stati invece assolti dall'accusa di negligenza ed insufficienza nel controllo dei cibi e dei pacchi destinati al Fantazzini e nelle ispezioni personali sul detenuto prima e dopo il suo trasferimento dal carcere di Bologna a quello di Fossano. Dopo la sentenza, Ors Fantazzini è stato condotto nel carcere di Saluzzo. Di qui, nei prossimi giorni, verrà trasferito in quello di Lecce. Oltre ai 18 anni inflittigli oggi, deve scontarne altri 22 per una serie di rapine. Appendice. Poesie. Compagno vietnamita, tu ci hai reinsegnata la strada, una strada volutamente ignorata. Hai messo luce di piombo nelle nostre coscienze addormentate. Hai trasformato in complessi di colpa la nostra indifferenza. È già qualcosa. I nostri pigri giornali ci portano periodicamente terribili foto di tuoi figli e fratelli morti, di altri che stanno per morire o moriranno. La vergogna ci prende e con improvvisa rabbia raduniamo bandiere, gente, slogans e facciamo magnifiche manifestazioni e anche fiaccolate notturne. Chi non può fiaccolare scrive vibranti lettere di protesta. È bella una manifestazione. La solidarietà è sincera. Ci si sente compagni ed uniti. Fa bene leggere il proprio nome stampato sotto una lettera di protesta. È come un fiore all'occhiello. Per un po' di tempo poi ci sentiamo acquietati, sino a quando altre foto smuoveranno il nostro torpore. Ma poi, compagno vietnamita, quando, riposti gli slogan e le penne, ci raduniamo ad un tavolo a dissertare intelligentemente o per un'allegra spaghettata tra compagni, tu sei sempre là che combatti. I tuoi fratelli muoiono ancora e ci giungono ben fievoli i lamenti dei torturati. Amiamo dire che un popolo che alza il fucile non può essere vinto. Dove sono i nostri fucili? Ce li rubano gli alchimisti della politica, gli intellettuali che amano spezzare in due le virgole dei grandi libri, gli studiosi dei compromessi internazionali, mentre il piccolo vietnamita pulisce il fucile del padre. Noi parliamo di strategia calcistica ai nostri, promettendo che li porteremo allo stadio se ci porteranno a casa un bel voto. La vergogna ci è sopportabile. Bastano periodiche oceaniche manifestazioni? Anche da noi, di tanto in tanto, ragazzi muoiono con un'arma in mano. Muoiono anche nelle piazze, senza fucile, per spiacevoli incidenti. Li chiamano banditi, provocatori, o nella migliore delle ipotesi, ingenui, sprovveduti ai margini del momento storico. C'è sempre un momento storico da rispettare. Sembra che gli sfruttati di ieri non siano simili a quelli di oggi. Il momento storico è diverso. Infatti l'operaio non è più costretto 14 ore al posto di lavoro. Gli è persino concesso di fare pipì e la durata dei suoi bisogni fisiologici è istituzionalizzata dai sindacati. Nell'attuale momento storico le ferie e le festività pagate sono un diritto, le pensioni una sicurezza, il salario minimo garantito è alle porte. Gli omicidi bianchi l'anno scorso sono stati 4.000, milioni i feriti, tutti o quasi catalogati ed assistiti, meno i morti. Se muore un poliziotto che per mestiere maneggia armi, lo si strumentalizza con un funerale di Stato. Il muratore morto con una cazzuola in mano viene invece sepolto frettolosamente, senza autorevoli telegrammi di condoglianze. Sono forse 100.000 gli operai morti sul lavoro negli ultimi 20 anni, decine di milioni i feriti, gli storpi, coloro che muoiono corrosi dalle malattie professionali, non vengono incapsulate dalle statistiche, oltre 1 milione di disoccupati, altrettanti vecchi, con pensioni dette sociali, sono parcheggiati in lager ricoveri, aspettando una non serena morte. Schiere di bambini languono in lager asili, sotto gli amorevoli occhi di pie sorelle. C'è sempre un lager per gli esclusi, questi morti, questi invalidi, gli emarginati nelle baracche, nelle carceri, nei manicomi, negli asili, negli ospizi, coloro che per un osso vendono la loro personalità e che non sanno più distinguere l'elogio del padrone da un'umiliazione. A quale momento storico appartengono? A Napoli il tasso di mortalità infantile è tra i più alti del mondo. Si muore per denutrizione a Napoli, ai margini dei quartieri residenziali. Amiamo parlare di civiltà dei consumi. Consumi per chi? Sappiamo che il relativo benessere di un europeo poggia sulla fame di tre fratelli del terzo mondo. Il benessere di un americano pesa di più, perché è notoriamente meglio nutrito. I nostri futili gadget, le nostre briciole di benessere ci vengono anche dalle rapaci multinazionali, arricchitesi sul fuoco versato sulla sua terra. Dietro ai tuoi morti, alle tue risaie allagate, alle tue città distrutte, ai tuoi boschi bruciati e defoliati, c'erano televisori e automobili anche per noi. Tra breve, risolti i compromessi politico-commerciali, ci daranno la TV a colori. Una coscienza addormentata psichedelicamente, forse è maggiormente sopportabile. Ci sarà un tuo fratello assassinato nel nostro televisore colorato. Sappiamo tutto questo, ma parliamo di internazionalismo. Rigidamente allineati nelle nostre frontiere, ci basta che il nostro piccolo giardino sia tenuto relativamente pulito e che ci sia gettato un osso da rosicchiare. In Africa si muore, in Sud America si muore, si moriva in Grecia e Portogallo e con maggiore discrezione si muore anche da noi, mentre più indiscretamente si muore in Spagna e Irlanda. Ma tutto questo sembra così lontano. Per le guerre di giustizia e libertà che si combattono a migliaia di chilometri basta una manifestazione, tanto per fare sapere che siamo vigili e sensibili ai problemi degli altri. E tu, compagno vietnamita, senza avere selezionati i grandi libri, portavi avanti la tua guerra di popolo, una guerra di oltre 30 anni. Vincevi, continuavi a vincere, vennero gli accordi di Parigi e ci sentimmo tutti sollevati. I nostri giornali non ci avrebbero più portate all'ora di colazione fotomestatrici dei nostri complessi di colpa. Quando i tuoi delegati, dicendo che ancora si moriva nella tua terra, rifiutarono il Nobel di pace, molti capirono con freddo disagio che la pace delle coscienze era ancora lontana. Tu intanto, compagno vietnamita, mentre i fantocci con mutande a stelle e strisce violavano i nuovi accordi come già fecero con i vecchi, tu portavi avanti la tua lotta. Oggi i nostri giornali parlano di grandi vittorie popolari. Le piccole formiche rosse avanzano inarrestabili, mentre il nero formichiere con le mutande strisce stellate a brandelli urla «Help!» in 10 lingue. Le controfigure dello zio Sam hanno preparate le valigie, alcuni già sono scappati, altri mettono al sicuro lingotti d'oro. Un popolo laborioso e gentile, nato per sorridere e costruire, sta diventando sovrano della sua terra, dall'America con cinica regia, per rapinare agli spettatori tenerezza e solidarietà, fanno la tratta dei piccoli vietnamiti. Sane famiglie americane li nutriranno all'ombra della Statua della Libertà con scatolette di carne umana. Potranno servire in futuro. C'è sempre una baia dei porci nel futuro delle piccole nazioni che hanno strappato la libertà al grande orco. Ma non ci sarà una baia dei porci in Indocina. La tua lotta è stata troppo lunga e ti è dovuto universale rispetto. Tu hai realmente insegnato al mondo che un popolo che alza i fucili non può essere vinto. In mezzo alla colpevole indifferenza tra le pieghe d'una formale solidarietà c'erano anche innumerevoli giovani, la parte migliore d'ogni nazione, che avrebbero sinceramente voluto combattere al tuo fianco. Il tuo esempio resta. I loro fucili dormono da qualche parte. Aprile 1975. Forse da qualche parte, ricordando del padrone, ragazzo di 20 anni, fucilato alle murate. Ragazzo, senti il rumore del tuono? Forse da qualche parte un uomo sta lottando, lotta per te, per me, per tutti, ma pochi sanno dirgli grazie. Ragazzo, senti lo stillicidio della pioggia? Forse da qualche parte una vita si sta spegnendo, e questa pioggia è l'eco d'un lontano dolore. Ragazzo, senti il peso di questo improvviso silenzio? Forse da qualche parte un uomo è stato vinto. Fucili di venduti fratelli gli hanno impedito di gridare libertà. Ragazzo, il dolore di uno dovrebbe essere il dolore di tutti e non è giusto che mentre tu piangi altri ridono. E mentre tu ridi altrove altri si disperano. Ragazzo, al prossimo tuono non spaventarti, alla prossima pioggia non chiudere la tua finestra, al prossimo silenzio mettiti a gridare con rabbia. A Loris, Perugia, marzo 1974. Generazione a confronto. Elogio dei bambini nati liberi e che intendono rimanere tali. Non sei ancora nato, bambino, che già t'hanno scelto un nome, che già programmano il tuo futuro. Sarai ingegnere, dottore, avvocato, dicono loro. Comunque qualcosa che loro non sono diventati e che avrebbero voluto essere. Proiettano su di te le loro delusioni, i loro fallimenti, le loro sconfitte. Sconfitte accettate senza ricercare le cause. Non sei ancora nato, bambino, e già costruiscono per te chilometri di catena. Ti prenderanno, senza chiedersi cosa penserai tu un giorno di questo, e con acqua e sale faranno di te un cristiano, o forse ti taglieranno il prepuzio, o ti faranno altre inenarrabili cose. Dovrai comunque subire l'applicazione della tua prima etichetta, poi altre ne seguiranno. Non saprai ancora leggere, ma apprenderai ugualmente il significato di centinaia di divieti. Vietato calpestare l'erba, vietato urlare, vietato sporcarsi, vietato dire parolacce, vietato mettersi le dita nel naso, vietato dire che alla nonna puzza l'alito e che la zia ha la barba, vietato ispezionare opposti sessi e anche il proprio. Vietato, vietato, vietato. Certi giorni, vedendoti pensieroso e triste, chiameranno un medico. Ti farà ghili ghili e ti prescriverà una purga. Se persisterai nel tuo atteggiamento triste e pensieroso, ti compreranno un giocattolo. Tu lo romperai perché non ti piace e perché altri hanno stabilito che deve piacerti. Sarai considerato un bambino difficile da genitori che si credono facili. Vecchie tartarughe, scuotendo decrepiti diti, esclameranno: tu finirai male, ragazzo. Ma se loro fossero finiti bene, loro che non hanno capito nulla o che forse non si sono sforzati per farlo, perché capire comporta responsabilità, comporta presa di posizione, mentre loro come posizione hanno scelto quella dell'insulsa tranquillità, insulsi matrimoni, insulsi mestieri, insulsi amplessi, insulsi pensieri, insulsi programmi TV, insulse letture, e vorrebbero a loro immagine e somiglianza insulsi figli. Ma il maledetto cerchio ha scricchiolato e la continuità delle tradizioni si è incrinata. Meravigliosi ragazzi hanno scavato nel deserto e vi hanno trovato nuove linfe. Qualcosa è cambiato e cambierà ancora. Leggi, istituzioni, convenzioni. Vecchi dinosauri stanno morendo soffocati dalle loro ragnatele. L'uomo nuovo sta nascendo, o forse è già nato, e all'interno di se stesso e dei gruppi sta cercando nuove dimensioni sociali nelle quali espandersi. Alloris, Perugia, luglio 1974. Fine. Thank you. di inutile capire, vedi anche sante ciò che sante di ne marzo da panega, ne sciopo da pagaga, vedi anche di sé per chi e non ti sente chi prega sta giù in da qui c'è come una vera e un madre che ho stravia da qui mentre ti caccia sa te venia a chiamare che ti deve imbarcare e ti su di come una giua e lì che non ti vedi lua ne navega, ne navega. Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che io so e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli.